Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:07, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero, il rotocalco che rivede protagonisti, anche perché, come sapete, alle 11:30 giochiamo, come sempre, col mistero in 24 minuti, anche questa settimana. E per riuscire a portarvi a casa i 1000 euro dovete anche cercare di risolvere appunto questo mistero. Lo farete ascoltando gli indizi musicali e più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà, però si parte appunto da 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il primo indizio di questa settimana ve lo faccio ascoltare adesso. Noi siamo i soliti, quelli così. Eccolo qua, no Vasco Rossi, questo è il primo indizio. Per prenotarvi potete farlo immediatamente, il numero verde è questo, 800 24 00 24, si gioca, vi ricordo, alle 11:30. E veniamo invece alla puntata di oggi che dovrebbe così far rinfrescare l'aria, nel senso che il tempo si è davvero rinfrescato e quindi rinfreschiamoci anche noi, almeno per quanto riguarda la nostra lingua, parlo dell'italiano e cerchiamo di capire quali sono i neologismi e nuove parole che sono entrate a far parte dello Zingarelli edizione 2012. Partiamo proprio da qui per capire quali sono i nuovi linguaggi in tanti settori, non soltanto nella nostra lingua, però qual è il nuovo linguaggio del cinema, dove ci si sta spostando, il nuovo linguaggio della scrittura, dei videogiochi, dell'intrattenimento in generale. Insomma, cercheremo di capire da che parte stiamo andando, verso cosa stiamo andando, visto che è anche iniziato il censimento, per cui anche quello ci aiuterà a capire cosa siamo in questo momento e come siamo cambiati. Questo nel riposo del guerriero. E allora, visto che di cambiamenti si parla, io direi di cominciare da lei. Nero testo di Renato Pareti, questo di Come si cambia, una delle canzoni credo più famose in assoluto di Fiorella Mannoia, per parlare proprio di cambiamenti. Infatti è uscito lo Zingarelli 2012, ci sono 1500 nuove voci che sono entrate in questa edizione e quindi parliamo subito con Mario Cannella, che è il curatore degli aggiornamenti proprio dello Zingarelli 2012. Cannella, buona domenica. Buona domenica a lei. Allora, cominciamo dai neologismi. Innanzitutto, come li cercate? Sì, preciso subito che per neologismo intendiamo sia la parola nuova che non c'era prima. Sì. E che entra nel vocabolario. Quindi qualcosa che, insomma, il parlante ha inventato, ecco, diciamo. Nella lingua italiana è uscita una nuova parola, le faccio un esempio, tecnostress, che abbiamo inserito quest'anno, casomai ne parliamo dopo. Come no? Oppure è una parola vecchia di cui abbiamo notato un uso più recente, le faccio anche qui solo un esempio, convergenza. Ecco, e quando invece si tratta di parole, perché con la nostra Dragotto, che poi andremo a sentire più tardi, la nostra glottologa, si parlava anche di neofemia, ovvero quelle parole sì, che prendono un senso diverso. Esattamente, ecco. Neofemia è un neologismo di quest'anno anche nello Zingarelli. Abbiamo inserito la parola neosemia, sì, cioè il nuovo significato di una parola, certo, proprio nello Zingarelli 2012, guardi che coincidenza. Va bene, ne parliamo sicuramente tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Scusate, mi viene in mente una cosa, oggi sapete che a Milano c'è il blocco del traffico e c'è un silenzio surreale per tutta la città, che è straordinario, perché in effetti i rumori delle auto ci sono e come, non soltanto quelli, è una divagazione, lo so, ma mi è venuto in mente parlando di traffico, non vi ho dato neanche il numero per gli sms, 349-238-6666, sono con Mario Cannella al telefono, il curatore degli aggiornamenti dello Zingarelli 2012, appena uscito. Allora, Cannella, stavamo dicendo, nuove parole da cosa vogliamo cominciare? Ma dica lei come preferisce. Ce ne sono 1500 da scegliere, per cui allora io vorrei chiedere per esempio una cosa. Ho visto che è entrato iPad, tra le altre cose è possibile scaricare, comprare anche la versione proprio per iPad e iPhone del dizionario. Sì. Perché avete scelto iPad ma non c'è iPhone? Ma sa, quelle sono valutazioni che vengono al momento, nel senso che si ritiene che un certo dispositivo entri nel linguaggio per antonomasia, nel senso che per iPad si intende in generale un dispositivo di quel tipo, allora lo si inserisce nel vocabolario. Fino a quando un termine rimane circoscritto all'uso specialistico lo si lascia lì, ma insomma spesso i confini sono labili e non c'è una teoria scientifica e un meccanismo di tipo matematico per cui una parola entra o non entra. Certo, viene alla fatta semplicemente una scelta. Ci fa qualche esempio di parole che erano già nell'uso da anni e che voi avete deciso di inserire invece in questa edizione proprio perché utilizzate più del solito? Sì, più del solito, in modo più esteso del solito. Beh, sì. L'esempio più clamoroso è celodurismo. Sì. Celodurismo l'abbiamo datato 1993, cioè a noi risulta comparire la prima volta in un testo scritto di lingua italiana nel 1993. Abbiamo resistito per anni fino a quando la parola è rimasta confinata all'uso relativo a un partito politico in particolare italiano, come è noto. Quando però abbiamo notato che il termine si è esteso in generale, l'abbiamo trovato anche per attribuire determinate qualità o caratteristiche a candidati americani per le elezioni americane, è diventato allora sinonimo di grinta, di atteggiamento aggressivo, maschile e così via, allora abbiamo considerato che è entrato, diciamo così, nell'uso della lingua italiana, anche se in un linguaggio tipicamente giornalistico. Certo, quindi insomma avete deciso di inserirlo. Invece termini completamente nuovi o che comunque sono entrati nell'uso da pochissimo, molto recenti, o ci vuole un certo tempo perché possano essere considerati nuovi? Guardi, anche qui non c'è la bilancia, sì, immagino. C'è il metro e il centimetro. Sono sempre valutati. Alla fine, se lei calcola quantità di presenza e qualità di presenza, alla fine c'è sempre una valutazione e il vocabolario, i buoni vocabolari si prendono queste responsabilità. Però in generale ci sono anni. Se lei guarda quest'anno, un lemma, una parola nuova inserita datata 2010, cioè recentissima, cioè di parole nuove di quel tipo ce n'è solo una, che è un elemento chimico che si chiama copernicio, che è datato 2010 perché è stato scoperto nel 2010 e l'abbiamo inserito nel vocabolario. Non avrebbe potuto essere altrimenti, ovviamente. Ecco. Certo. E le parole, diciamo, anche del 2009, c'è biotestamento. Sì. Che è testamento biologico, certo. E c'è cisgenico, che è come dire transgenico ma più buono, per capirsi in termini molto, molto semplici. Quindi spesso le parole hanno 5, 6, 7, 8 anni, ecco, prima di essere inseriti. Quindi, e inseriamo parole che ritornano nell'uso, anche antiche. Abbiamo inserito per esempio iattante, che viene da iattanza, che vuol dire tracotante, millantatore, sì. Che è una parola del 1600 che abbiamo trovato usata anche da Bacchelli e che, di cui abbiamo trovato un uso significativo. Anche la parola sciroccoso, che è bella perché ha a che fare con lo scirocco, ma richiama qualcosa di caldo e di umido, insomma, un pomeriggio sciroccoso. Niente a che fare con sciroccato invece, no, a questo punto. No, sciroccato viene da sciroccare, è un altro clima, ecco. Diciamo così. Ecco, anche sciroccoso è una parola di fine Settecento, quindi recuperiamo spesso termini non recentissimi, che però in qualche modo tornano di moda. Mentre altre parole tipo viralità, per esempio, che ha a che fare col mondo della pubblicità, sì. La viralità è la capacità di una campagna di diffondersi, tipo passaparola, insomma, con passaggio quasi da uno all'altro utente con grande rapidità, oppure resettaggio, splittare, rippare. Questi sono termini che hanno a che fare con la l'utilizzo del computer, con fondamentalmente. Recente, sì. Sì. Ecco, invece le neosemie stavamo parlando di quello anche. Tra l'altro mi diceva che è entrata proprio la parola nel dizionario anche, neosemia. Sì, in sé. È entrato come neologismo, proprio come neologismo lessicale, sì. In quel caso lì abbiamo inserito, per esempio, naturalmente sotto meticcio c'era già il significato, cioè la parola c'è già da tempo, ma l'abbiamo inserito come aggettivo relativo a qualcosa che deriva da elementi eterogenei, diciamo, per esempio culture meticce. Sì. Ecco, anche questo, anche alla parola la squadra è una parola molto antica, naturalmente, ma la locuzione fare squadra non soltanto nel significato sportivo, credo che la usiate anche voi alla radio, insomma, l'importanza di fare squadra in un lavoro, in una redazione, dovunque ci sia un'equipe di lavoro, oppure sotto mille, la locuzione andare a mille. Ecco, andare a mille. È che è un po' ellittico per a mille all'ora, no? Per dire essere al massimo, insomma, essere su di giri, potremmo dire, anche con un altro modo di dire. Ecco, sotto mille abbiamo inserito anche questo. Sono interventi che si fanno su parole vecchie. Alcune sono ormai da tempo, non so, se io le dico la parola scaricare, se lo dice, beh, forse mio papà qualcosina ha visto, ma mio nonno di sicuro, se gli dicevo la parola scaricare, gli veniva in mente un porto, un camion, un cargo, non un file MP3, per esempio. Ecco, esatto, sì. Ecco, senta Cannella, quanto tempo ci vuole per fare questo tipo di lavoro? Quanti anni passano tra un'edizione e l'altra e quante persone ci devono lavorare? Guardi, fino al 94 la media era di una decina d'anni, adesso hanno più e hanno meno, cioè c'era un'edizione, poi dopo 10, 11, 12 anni ce n'era un'altra. Allora, quando usciva un'edizione si riuniva un gruppo, una redazione, un gruppo di lavoro, stabiliva criteri, le griglie, e ci si divideva il lavoro, si cominciava a lavorare, poi ci si rivedeva. Nel 94, con grande intuizione, secondo me, abbiamo capito che quel sistema non andava più, eravamo alle soglie ormai già superata della rivoluzione informatica e avevamo capito che se nel 94 ci fossimo dati appuntamento al 2004-2005 e dopo aver lavorato e aver stabilito una griglia di lavoro, probabilmente il rischio è che ci saremmo trovati a ricominciare tutto da capo, perché tutto cambiava così rapidamente nella realtà e nelle parole stesse, che ci avrebbero obbligato a rifare i nostri criteri di intervento e anche le modalità di intervento. E allora abbiamo stabilito una edizione annuale. All'inizio fummo un po' rimproverati, ci disse vogliono fare come la guida Michelin o il Gambero Rosso, che so io, che escono per aggiungere o togliere qualche albergo e ristorante, ma non era così. Il lavoro di intervento sulle parole nuove ha sempre coperto, diciamo, un decimo dell'attività, ma anche meno, annuale di un vocabolario. Facciamo 15-20 mila interventi all'anno. Uno dirà, ma come, le parole sono sempre quelle? Vero, ma per descrivere le parole e per scrivere gli esempi bisogna usare altre parole. Se quelle parole sono vecchie, l'utente si accorge che c'è della polvere nel vocabolario. Se io, per definire un esempio che faccio sempre, la trottola, comincio a definirla balocco per fanciulli, lei vedrà no, che va bene per un rebus, no, è ecco, carino, certo. Ma insomma, ecco, esatto, se lo dico al mio nipotino che ha 5 anni e mi guarda con l'occhio sgranato chiedendo perché, ma che cos'è la trottola, te lo richiede ovviamente perché non capisce, ecco, esattamente, il senso della, sì, vuoi, no, oppure fa il passo indietro e dice cos'è il balocco, certo, cos'è un fanciullo, insomma, ecco, ho ammettutamente una domanda, Cannella, ma delle parole escono invece dai dizionari? Sì, dunque abbiamo problemi di spazio nel cartaceo, naturalmente nell'edizione online o nell'edizione nel DVD no, nel DVD abbiamo addirittura messo tutto l'intero Tommaseo Bellini, per dire, 8 tomi. Ecco, lì non ci sono, ma nel cartaceo, che è quello molto usato nelle famiglie, nelle scuole ancora, abbiamo problemi di spazio, abbiamo dovuto semplificare, ridurre, usare una serie di interventi grafici, unificare delle parole della stessa famiglia invece di fare mettendoli come sottolemmi. facendo degli accorpamenti. E poi abbiamo proceduto a due eliminazioni. Per alcuni anni abbiamo tolto un po' di toscanismi. Sì. Cioè di parole dell'uso toscano entrate nei vocabolari dopo che Manzoni andò a sciacquare i panni in Arno, entrarono moltissimi toscanismi. Molti di questi sono rimasti nella lingua italiana in testi letterari usati e non verranno mai tolti, altri invece sono rimasti solo nei dizionari, solo nel Tommaseo Bellini. Abbiamo fatto una verifica anche faticosa in termini di tempo e alcuni ne abbiamo tolti. Non so, librizzattolaio per esempio, venditore di libriciattoli, che non ha avuto... Sì, già libriciattolo, però dice anche tantissimo, onestamente. Sì, dice tanto, però se può darsi che tra 20 anni qualcuno lo ritiri fuori e ritorna nell'uso, ecco. E questa è una categoria. L'altra categoria è una serie di termini, di tecnologia in particolare, che sono usciti dall'uso, perché è uscita dall'uso l'utilizzo, ecco. Sotto casa ho molti libri ciattolai comunque, quando c'è la fiera dell'antiquariato. Sì. E ancora una domanda all'ultima, Cannella, è questa: sì. tra le parole entrano anche parole che in realtà sono dei marchi registrati, ma che però indicano un prodotto. Volevo parlare di frappuccino, sì, che è stato inserito da Starbust, ovviamente. Perché noi italiani lo usiamo, frappuccino? Perché è diventato frequente, e non è recentissimo, guardi che mi pare datato alla fine degli anni 80, se non ricordo male. Addirittura in Italia, quindi? Sì, addirittura in Italia, quindi non è una cosa recentissima. D'altro canto non è una novità, lei pensa alla Coca-Cola, ma pensa all'aspirina, che è diventata per antonomasia il farmaco antifebbre o antinfiammatorio. Prenditi un'aspirina, non è detto che poi uno debba prendere proprio quella prodotta della Bayer, mi pare, può essere sì. Entrano nel linguaggio, naturalmente, ma su alcune parole si scommette, insomma, che duri. Ma perché Starbucks semplicemente in Italia non so neanche se ce n'è, forse ce n'è uno, io non mi ricordo onestamente se ce n'è uno soltanto o non ce n'è proprio uno, neanche uno, e quindi pensavo, ecco, che non fosse così entrato nel... No, ci sono attestazioni anche frequenti, e non semplicemente in siti di non so, in blog di serie C o di chatline o così, ma anche in siti. Delle volte ci sono sorprese, sa, anch'io mi sorprendo delle volte quando mi segnalano delle parole e dico ma no, e poi si va a verificare. Ricordo benissimo quando proposero il gattile, mi venne da ridere, il gattile, cioè il ricovero per i gatti, insomma, parallelo del canile, io non li conoscevo, poi andai a verificare e vidi che ce n'erano tanti. Era in Italia, piano, certo. Anche ufficialmente, mentre per esempio adesso ci è stato segnalato di recente paddista, nel senso di patito fanatico dell'iPad, sì. Però è ancora un termine di gergo, di nicchia, insomma, abbiamo visto le occorrenze sono veramente poche, non hanno presenze sulla stampa che contano. Devo dire che Radio 24 è molto ascoltata da noi, tutte le trasmissioni, e spesso ci offre spunti di controllo e verifica. Non l'ho fatto per piaggeria. La ringrazio, Cannella, e tra poco ve ne daremo degli altri, ecco. Perché abbiamo la Dragotto che è lì, sul filo, che sta analizzando tutto quello che stiamo dicendo per vedere questo punto di vista. Bene. La ringrazio, Cannella, grazie davvero, e grazie per il lavoro che fate, che abbiamo capito è veramente molto impegnativo, e ce n'è tantissimo. Buona domenica. Grazie. Vi ricordo lo Zingarelli 2012, appunto, da pochissimo uscito anche versione CD-ROM completissima. Quella CD-ROM a me piace perché c'è anche, a parte che c'era l'analizzatore morfologico quest'anno, ma c'è anche questo programma che da tempo hanno inserito, che crea gli anagrammi dalle parole che volete, ed è molto divertente perché uno inserisce il proprio nome e cognome e vede tutti gli anagrammi che si possono combinare con quelle lettere. E noi abbiamo nella pubblicità e poi torniamo proprio con la nostra glottologa preferita, Francesca Dragotto. Il riposo del guerriero. Abbiamo citato anche Starbucks prima, e in effetti l'unica nazione dove non c'è è proprio l'Italia, perché difficilmente noi berremmo in bicchieri di plastica o mentre si cammina, però in realtà c'è in tutto il mondo. E devo dire che credo che la forza di Starbucks sia non tanto il caffè, quanto o il famoso frappuccino, appunto, quanto il fatto che in tutti gli Starbucks, almeno negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra e in Francia, c'è la possibilità di navigare wifi in internet gratuitamente, quindi si va lì con il proprio computer portatile o tablet che sia e si lavora, si guarda, si leggono le notizie, eccetera. E questa chiaramente è una grande forza, quindi è diventato un luogo di ritrovo. Ne abbiamo tanti in Italia, forse non ne abbiamo bisogno di Starbucks, ma a parte questo c'è Francesca Dragotto, che non so se ha già bevuto il caffè, ma immagino di sì. Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno. Allora, devo dire che Francesca ha studiato molto, si è fatta dare una certa quantità di lemmi nuovi, quelli entrati appunto nel nuovo dizionario, perché parliamo proprio ancora una volta, continuiamo a parlare di novità, di quello che è stato inserito nel dizionario e quello che forse non c'è. Ci sono anche parole che ancora non sono entrate, quantomeno nello Zingarelli, Francesca. Diciamo che quanto detto poco fa da Mario Cannella dimostra quanto sia complessa e articolata l'attività del lessicografo. Ma chi ve lo fa fare? Chi ve lo fa fare? l'appassionato, chi lo fa per lavoro, chi è appassionato lo fa nel tentativo di riuscire ad imbrigliare un po' un qualcosa che per definizione invece sfuggirebbe da una parte, dall'altra, perché la lingua è un qualcosa di magmatico, è una sorta di blog, un qualcosa che, essendo legato all'uso da parte del parlante, moltiplica se stesso per infinite volte. È sufficiente un fatto che accade nel proprio quotidiano per indurre alla neosemia o al neologismo tout court. Quello che poi fa la differenza tra il neologismo occasionale, chiamiamolo, è una meteora, no? Un occasionalismo, e quello che poi invece diventa neologismo anche per la lessicografia e dunque per i dizionari, è la ricezione da parte della comunità parlante. Quindi è la massa e l'impiego nei testi scritti, perché almeno finora, e che sarà così credo ancora per tantissimo tempo, soltanto le forme scritte, che dunque si trovano attestate in testi scritti di una qualsivoglia tipologia, e già questa è una novità, perché fino a qualche decennio fa sarebbe stato impensabile andare a selezionare lemmi, potenziali nuovi lemmi per un dizionario, attingendo magari, che so, al lessico della chimica, oppure attingendo al giornalismo non quello, insomma, tradizionale. Ecco, quello che fa la differenza tra un qualcosa che nasce, si consuma anche dopo essere stato esausto, sfruttato fino in fondo dal parlante, e quello che invece entra all'interno del dizionario, è l'uso, l'accoglimento da parte della comunità. E quindi dobbiamo rimettere al centro di tutta quanta questa esperienza il ruolo del parlante. Ecco, quindi il parlante ha sempre ragione, in realtà non sbagliamo mai, anche quando sbagliamo, funziona così. Allora diciamo che il parlante, per ragioni che sono connesse col fatto che esercita la propria competenza su quella che è la sua lingua, è portato a formare tantissime parole che risultano corrette dal punto di vista della struttura della parola. Quindi un parlante non direbbe mai che so rpima, perché sa che la successione rp ad inizio di parola è inaccettabile. Però posto il rispetto di regole di questo tipo, il parlante adatta la propria conoscenza linguistica a creare tutto quello di cui ha bisogno. E allora tu potresti dire, allora, chi mi dice che quello che ha creato il parlante non sia giusto e che non debba per questo entrare all'interno del dizionario? Beh, il fatto che comunque per ogni lingua si sia andata stabilendo nel corso dei secoli una norma di riferimento. Questa norma naturalmente è soggetta a revisione, ma possiamo immaginare che la norma diventi il canone, un qualcosa a cui ci votiamo nel momento in cui abbiamo il dubbio sull'accettabilità di una parola, sul fatto che sia consono utilizzarla in un certo contesto oppure no. Ecco, voi linguisti o glottologi, voi ci spiegherete la differenza, perché adesso no, ma che ci sarà sicuramente. Adesso apro il dizionario e la leggo. Ma continuate giustamente a fare riferimento a parole che appaiono scritte su libri, ovviamente, e su in qualche modo testate, accreditate, chiamiamole così. Vorrei capire quali possono essere queste testate accreditate. Voglio dire, soltanto quotidiani oppure anche blog importanti? E blog importanti, come decidete l'importanza di un blog? Qui devo, non lo so, distinguere. Sto così. Sì, sì, no, qui devo distinguere quella che è la risposta un po' della corporazione dei linguisti rispetto a quella che è la mia personale esperienza di linguista che ha lo studio dei neologismi tra le proprie attività di ricerca. Già dicendo questo faccio capire che in qualche modo cerco di distaccarmi, ma ovvero la selezione dei neologismi la faccio anche partendo da forme non canoniche, quindi anche i blog, e non soltanto i blog istituzionali, che in qualche modo sono semplicemente la resa digitale, comunque la resa in un mezzo digitale alternativo di un qualcosa che troveremmo magari uguale anche in un quotidiano o in una rivista prestigiosa e dalla forte tradizione. Però ecco, se si decide di cimentarsi con la ricerca neologica, andare a frugare nei blog non istituzionali può essere interessante per capire tutto quello che c'è stato a monte e che ha consentito alla parola poi di diventare neologismo, nel senso che spesso il parlante, e questo è venuto fuori anche prima, si è servito di una parola per anni e anni e anni. Quindi noi la troviamo in realtà attestata sicuramente da prima che entri nel dizionario. Il problema è lo iato, è proprio questa cesura temporale che separa l'attestazione, soprattutto quando si tratta di un'attestazione forte, quindi il parlante usa una forma perché la riconosce, ci riconosce un qualcosa che si adatta a parlare di una certa situazione. Quindi lo iato che c'è tra l'uso e poi la registrazione nei repertori di riferimento. Ecco, allora Francesca, adesso siccome hai rivelato insomma il tuo interesse per i neologismi, che a noi piacciono in modo particolare, te ne propongo alcuni. Uno l'abbiamo inventato prima al telefono, ma non ve lo dico perché non sappiamo se entrerà nell'uso comune, ma cercheremo di farlo. Però mi è appena arrivato un messaggio curioso e dice questo: sono l'inventore della parola mambrucco. Dopo averlo usato scherzosamente in varie occasioni, mi sono trovato dopo alcune settimane a sentirmi dare del mambrucco da sconosciuti. È stata aggiunta al vocabolario, questo non lo so, devo controllare, ma ti piace mambrucco? Non so da dove arrivi. Ma sì, è molto connotante e connotativo, quindi mi piace, così su due piedi non saprei neanche immaginare a quale schema il parlante si sia rifatto, perché poi è chiaro, il parlante non crea dal nulla, in genere tra il materiale che ha a disposizione pesca. Dove certo, naturalmente pesca certo. E poi può riutilizzare una struttura così come è già contenuta nel suo patrimonio di conoscenze, oppure adattandola, alterandola in maniera diversa fino a che non gli suona bene, perché poi il parlante ha se stesso, al proprio orecchio come elemento dirimente, no? Una cosa non funziona perché non mi suona bene. Chiunque di noi ha provato, senza essere linguista, un'esperienza del genere. Certo. Però il messaggio dell'ascoltatore sì. Sì, è chiaramente utilissimo e calza a pennello in questo discorso, perché sicuramente lui si è sentito dare del mandrucco da qualcuno che fa parte direttamente o indirettamente della sua rete sociale, soprattutto se sono passati pochi giorni da quando l'ha utilizzato. Oppure c'è un'altra possibilità, che in realtà non l'abbia creato ma creda di averlo creato, magari l'ha sentito tantissimo tempo prima, la sua memoria l'ha passato dalla memoria a breve termine alla memoria, quella dell'hard disk che abbiamo nel cervello, il parlante non si è reso conto di averlo fatto nel momento in cui si è trovato in una situazione che gli ha evocato quella stessa situazione in cui ha sentito la parola la prima volta, l'ha ritirato fuori con la convinzione di aver creato il neologismo. Poi andrò a vedere se c'è. Innanzitutto, poi è divertente il fatto che tu hai detto mandrucco con la D di domodossola, sì, invece la parola è mambrucco con la B. Me ne sono resa conto, no, ma è curioso perché sì, comunque certo. Poi uno associa quella. Tu sai cos'è il bosu? Sinceramente non lo voglio... so soltanto perché sta nella lista dei neologismi, ecco, infatti, che la redazione mi ha passato, esatto. Altrimenti no, non l'avrei saputo. Nessuno lo potrebbe sapere, almeno non io sicuramente, e tu fai già due. Però è curioso, è entrato, è un neologismo: attrezzo ginnico costituito da una pedana sormontata da una cupola di gomma morbida che consente i movimenti dello step e in più esercizi di equilibrio e di postura. Io non li faccio per quello che non sapevo cosa fosse il bosu, ovviamente. E l'ultima parola che ti chiedo invece è il compound, che ha un senso legato ai motori e nel dizionario è ancora citato come tale, come unico significato, ma invece dopo la cattura e l'uccisione di Bin Laden, compound è diventata una parola con un significato completamente nuovo. Sì, prima di rispondere prendo 5 secondi per riferirmi all'errore di poco fa, perché invece è sintomatico di come funzioni la creazione neologica, perché io lì per lì mi sono sbagliata. Adesso abbiamo parlato della forma mambruco con la B labiale, sì. Però se noi non l'avessimo fatto io avrei sedimentato mandrucco al posto di mambruco, certo. E magari l'avrei riutilizzato in un'altra situazione. E qui è quello che volevo arrivare, è il divertente della nostra lingua, insomma, in fondo dal latino abbiamo l'italiano, un motivo. Cioè. Esattamente, per cui insomma grazie all'ascoltatore che l'ha segnalato, però questa operazione la facciamo quotidianamente, il più delle volte senza renderci conto del fatto che la stiamo facendo, proprio perché attingiamo al noto per creare il nuovo. Allora, per chiudere la questione del lessicografo, delle pene del lessicografo, è l'unica cosa è rassegnarsi al fatto che il vocabolario della comunità dei parlanti, quindi quello che effettivamente viene usato e che è conforme alle regole di formazione delle parole, è infinitamente più ampio rispetto anche al più ampio dei dizionari che andiamo a redigere. E compound ci dà la misura di questo fatto, perché per ragioni non so quanto condivisibili, i giornalisti, anche italiani, che hanno parlato della cattura e dell'uccisione di Bin Laden hanno detto che Bin Laden è stato stanato nel suo compound. Ora, onestamente non c'era necessità di utilizzare un forestierismo, anche perché si sarebbe potuti ricorrere benissimo ad altre soluzioni, però l'italiano è un po' prono nei confronti soprattutto dell'inglese in quest'ultimo secolo, e una ragione del genere, unita al fatto che comunque una parola che non si capisce esercita su di noi un fascino maggiore, ha portato i giornalisti ad utilizzare compound che come neosemia non è registrata nel dizionario, ma lo si può anche capire, il suo ingresso è molto recente, sì, esattamente. Certo. Invece ho notato che è lemmatizzato pandemia, che è una parola che è entrata con la stessa sequela all'epoca dell'influenza aviaria, si parlava di pandemia e la parola si è diffusa tra i parlanti, anche tra coloro che non avevano un'idea del fatto che si trattasse di un composto classico in uso prima in lessici tecnici e che poi appunto si era sdoganato alla massa grazie all'impiego da parte dei giornalisti. Ecco, no, chiarissimo, scusami, ma ancora una volta adesso sfido i nostri ascoltatori a mandarci un messaggio al 349-238-666 spiegandoci cosa sia il compound, perché secondo me molti non lo sanno, hanno un'idea vaga di cosa possa essere ma nessuno lo sa precisamente. Grazie Francesca Dragotto, ciao. Un abbraccio ed aggiornamenti sul traffico, poi torniamo. Il riposo del guerriero. Sono arrivando molti sms, ve ne leggo qualcuno. Non maestrare, per esempio, è l'espressione che ha inventato per i suoi alunni una maestra che ha scritto appunto un messaggio e dice: lo uso quando i miei alunni continuano a dire maestra, maestra. Lei dice non maestrare, cioè non continuare a chiamarmi così, credo che questo sia il significato. Vediamo se esiste in questo senso, non credo. E poi Cristina sottolineava che da 50 anni sente dire mambrucco a Livorno, quindi non è proprio un neologismo, però dopo controlleremo sicuramente. Parliamo di nuovi linguaggi, comunque come si sta evolvendo anche la scrittura a questo punto, visto che la scrittura è fatta di parole. Paola Pioppi, ciao, buona domenica. Ciao e grazie a voi, buona domenica. Allora, Paola Pioppi è una giornalista del Giorno e ha fatto parte del comitato del premio Azzecca Garbugli, premio al romanzo poliziesco. Si è concluso da poco, perché si è concluso venerdì scorso, non so chi sia stato il vincitore o la vincitrice. Ha vinto Alfredo Colitto con il romanzo Il libro dell'angelo. Ecco, e ovviamente il premio si riferiva a romanzi polizieschi, però io volevo allargare un pochino il discorso, nel senso che volevo capire da te come si sta evolvendo o involvendo la scrittura, come sta cambiando, in che direzione stiamo andando. Per esempio, credo un grande interesse verso proprio i romanzi gialli, gli horror anche e le storie noir. Credo, insomma, da quello che vedo e che percepisco, poi magari è semplicemente un'opinione, ma non è così, è personale, insomma, non ha basi solide. Corrisponde perché queste variazioni verso l'horror, il fantasy, il noir, che comunque non è linguaggio recente, e altri che potremmo definirli banalmente sottogeneri, secondo me sono dei tentativi comunque di trovare delle alternative rispetto alla scrittura di genere che ha preso piede in questi anni, che comunque rimane connotata da due ingredienti fondamentali, che sono la semplicità di linguaggio e la capacità di identificazione con il lettore, e quindi la trasversalità. Sono degli ingredienti che comunque continuano a connotare i libri di maggior successo, di vendita più larga e gli autori che poi vanno in classifica perché comunque sono facili per un pubblico che è un pubblico magari di lettori non fortissimi e che quindi quando affronta un libro si vuole effettivamente rilassare. Poi ecco, non c'è il rischio, scusami Paola, di rendere sempre più povera, tra virgolette, la nostra lingua, leggendo appunto così una scrittura fin troppo facile? Così è una chiacchiera, perché poi la discussione penso che possa essere molto lunga in questo senso. Sì, no, io ritengo che ci sia effettivamente questo rischio e che più che un rischio sia un dato di fatto. Però è anche vero che il lettore è una figura nella quale io ho grande fiducia e che quindi ritengo che abbia una capacità critica e una capacità di distinguere la povertà da invece una ricchezza che può essere fatta di contenuti come di linguaggi, che non deve essere necessariamente alta nel senso canonico del termine, ma comunque capace di dare qualcosa. Cioè tu arrivi alla fine di un libro e hai la sensazione di non aver buttato via del tempo. Io credo che comunque i lettori oggi, davanti a un proliferare probabilmente eccessivo di narrativa di genere, tant'è che si è sviluppato in maniera abnorme il fenomeno dell'editoria a pagamento in questi ultimi 2 o 3 anni, perché c'è un po' questa corsa al dover pubblicare qualcosa a ogni costo, davanti a tutta questa abbondanza io mi rendo conto soprattutto i lettori del festival che è legato al premio Zeccaragulli e la passione per il delitto che si conclude oggi, hanno sempre più una capacità di distinguere il buono dal meno buono e ciò che fa per loro da ciò che invece ecco, quindi è. Ti sentiamo un po' male, Paola, non so se ti sei spostata e sta andando via il segnale. Volevo cercare di chiederti un'altra cosa, volevo chiederti la qualità che hai trovato nei romanzi in gara, in generale possiamo dire grande qualità di tutti oppure no, la media è piuttosto bassa e qualcuno così si è era particolarmente più forte degli altri. Allora, io premesso che sono abbastanza critica, nel senso che secondo me si può sempre fare qualcosa di meglio, io credo che ci sia una qualità in genere media, medio-alta, sicuramente non medio-bassa, medio-alta, perché però... E l'età degli scrittori più o meno? Ma l'età degli scrittori io credo che sia tra i 25, 28 e 35, 40. I generi? Più I uomini, generi? Più donne, sì? No, purtroppo più uomini, dico purtroppo perché anche quest'anno i 4 finalisti erano 4 uomini e purtroppo le donne continuano ad essere poche e in proporzione ancora meno quelle che fanno una scrittura di qualità. Ma è curioso perché le donne sono delle straordinarie lettrici, esatto. E quindi mi aspettavo invece appunto anche moltissime scrittrici in rapporto. No, ecco tutto qua. Ci sono molte scrittrici... sono molto meno degli uomini, per cui questa è sempre stata una costante ed è sempre stato un momento di difficoltà e di criticità, perché poi in proporzione tutti scrivono, chi scrive bene è solo una parte, però gli uomini sono molti, quindi la parte buona è numericamente più ampia. Per forza di cose, meno, certo, esatto. Per forza. Paolo Pioppio, ti ringrazio, insomma, leggere è sempre un piacere e grazie al cielo continua ancora a esserlo. Grazie Paola, ciao. Ma io sono una grande ottimista. Ma anch'io infatti, anche, lo dimostra anche il grande interesse degli ascoltatori quando si parla di libri, quando si parla di parole, per cui questo ci fa solo piacere. Grazie ancora Paola Pioppio. Grazie a voi, buona domenica. Dopo il GR continua il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero su Radio 24 e vi siete scatenati. Adesso devo leggere qualche messaggio, sicuramente lo faccio. Allora, qualcuno ha risposto sul significato di compound, leggo uno fra i tanti messaggi, quello che ritengo più chiaro. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, per chi ha lavorato in Africa il compound è una cosa chiara e precisa da tempo, è il comprensorio fortificato dove vivono gli stranieri. Poi qualcuno parla del neologismo attapirato con una P sola, è attapirato, nato alla redazione di Striscia per indicare colleghi col muso lungo, ma in realtà non esiste nel dizionario. Poi la famosa parola malbruco, mambruco che dir si voglia, qualcuno ci mette la L, qualcuno la M, comunque sia è un termine che si usa in Toscana, si dice per persona pacchiana o grossolana già da tempo, lui è di Livorno, però anche quella non è nel dizionario. Poi c'è un messaggio curioso, una volta parlando con un consulente, in un momento di irritazione ho detto perché non mi consuli, quindi il verbo consulare, dare consulenza, però non esiste e potrebbe essere sicuramente un neologismo. Poi qualcuno parla della parola del piuttosto che si usa nel nord, ma di questo avevamo già parlato, è un utilizzo sbagliato. Ma continuiamo a parlare di nuovi linguaggi, lo facciamo con Gabriele Niola, giornalista freelance che si occupa di cinema e di tecnologia e di cinema tecnologico in modo particolare. Gabriele, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Allora, anche il cinema sta cambiando, il nuovo linguaggio del cinema, se ce n'è uno, insomma, come si sta trasformando secondo te? Che cosa andremo a vedere nelle sale, ma nel senso dal punto di vista del linguaggio, non dal punto di vista dei titoli? Guarda, c'è stato qualcosa di clamoroso che è successo 15 anni fa, perché da quando è nato il cinema, più o meno, per decenni il cinema era il punto di riferimento nella creazione dell'immaginario delle persone, cioè quando c'era un'arte che doveva fissare le immagini a cui poi la comunità doveva fare riferimento, era il cinema. Oggi le cose sono un po' diverse, certo. Sì, negli ultimi 15 anni non solo è arrivata la serialità televisiva americana di nuova generazione a un po' a sparigliare le carte, ma diciamo che quello rientra un po' nelle maglie di Hollywood, cioè non siamo troppo lontani, ma soprattutto sono arrivati i videogiochi, che sono cresciuti per potenza, importanza e riconoscibilità presso il pubblico, cioè sostanzialmente più gente li gioca, detto proprio in due parole. E soprattutto la generazione dei primi videogiocatori è arrivata al cinema, cioè hanno cominciato a fare i registi. E questa cosa ha causato un passaggio di ispirazioni, competenze e anche potenza di influenza dell'immaginario collettivo dal cinema ai videogiochi, tant'è che il cinema ad oggi attinge ai videogiochi. Sì, anche viceversa, ovviamente, poi di questo parleremo. Stai sfondando una porta aperta, io sono sempre stato un grande sostenitore del videogioco come strumento proprio culturale e come racconto, anzi con la forza dell'interattività, ma questo è un altro discorso, ho avuto modo di scriverlo su molte riviste. Ma proprio allora di cinema così tecnologico, così anche legato al mondo dei videogiochi, cosa si sta perdendo secondo te, Gabriele, se qualcosa si sta perdendo invece rispetto al cinema? Non si perde niente, non si perde nulla, anzi c'è solo un arricchimento, perché diciamo che ciò che di buono c'era prima rimane, la grande grammatica del cinema, fatto dei montaggi, fatto della capacità di osare, di immaginare, c'è. In più ci sono degli attrezzi nuovi, ci sono delle soluzioni innovative, cioè ci siamo resi conto tutti quelli che hanno visto qualche anno fa Speed Racer, che era il film dei fratelli Wachowski, che erano quelli di Matrix, si sono resi conto che per raccontare questa storia di autisti, di corridori di automobili, di un figlio che sfida immaginariamente un padre che anni prima aveva corso sul medesimo tracciato, si utilizzava la tecnica di chiama ghosting, che è una cosa che hanno inventato i videogiochi di macchine, cioè una persona gioca e si sfida contro un fantasma, cioè sì, contro un'immagine succede quasi questo, uguale, esatto, succede questo. Esattamente, quando voi giocate un videogioco di corse automobilistiche, una volta finito il giro, voi avete la possibilità di vedere il ghost, cioè il fantasma della vostra stessa auto, e per capire come si era comportata nel giro precedente, avere quindi un riferimento. E questo, sì, questo... contro te stesso. Ecco, esatto, questo è molto, molto interessante. Gabriele, senti, parliamo del 3D invece, che sta imperversando e anche un po' stufo. Io sono un grande fan del 3D, ma in generale io credo invece che se ne stia facendo un uso esagerato e fondamentalmente anche sbagliato, cioè non serve ad arricchire il film. O non mi trovi d'accordo, ti trovi d'accordo? No, cioè questa cosa è verissima, e non te ne lamenti solo te, se ne lamenta il pubblico, ma soprattutto se ne lamentano i produttori, che è la cosa più grave. Quando i primi a promuovere il 3D si lamentano di chi lo usa male apertamente davanti a tutti, vuol dire che c'è proprio un problema. Quindi ci sarà un calo nel futuro secondo te o no? Guarda, il calo già c'è, comunque è già sensibile e si avverte. Cioè, faccio un esempio: Toy Story 3, che è uno degli ultimi film che sono usciti in 3D, che era anche un buon film in 3D, non stiamo parlando certo di un filmaccio, non ha incassato molto nella sua versione 3D, ma molto nella sua versione 2D, perché sai, i film in 3D escono sempre sia in 3D che in 2D, sì, certo, secondo di certo, come lo si voglia vedere. Per cui tu dici, comunque anche il pubblico non fa più quella scelta, a meno che non sia fondamentale. Avatar probabilmente è stato proprio uno di quegli esempi dove il 3D era fondamentale, onestamente. Il film cambia molto. Ma per esempio io ti potrei dire anche Tron. Sì. Tron, il Tron che è ritornato, era un film pazzesco, per molti anni non è stato capito, ma era un film tecnologicamente pazzesco, tutto 3D, musica di Daft Punk, design, era veramente avanti. Certo, però tu dici quindi, quando invece non viene utilizzato a dovere, quindi non serve, diciamo così, per il film, per arricchirlo, anche il pubblico stesso si stanca e lo preferisce in versione normale, che è anche meno impegnativa. Si disamora, sai qual è il punto? Sì. Che il 3D è una tecnologia che porta più soldi, no? Il biglietto costa di più e quindi si incassa di più. E questa cosa fa sì che chiunque cerchi di incassare di più, e quindi si crea quello che tra virgolette viene chiamato il 3D truffaldino, quello che in realtà non c'è una terza dimensione, è una farsa. Guarda, io avrei in mente un titolo, ma non voglio dirlo, ma è un titolo italiano, però hai già capito a cosa mi riferisco, ovviamente. Beh, ce n'è uno solo. Esatto, quello mi sembra molto truffaldino da quel punto di vista. Ecco, insomma, cerca di il meglio, ma non ce l'ha fatta, e forse va bene così. Grazie Gabriele Niola, buona domenica, ciao, grazie. Prego, buona domenica anche a te, ciao. Ciao, ciao. Allora, vediamo come si è spostato il cinema, la letteratura l'abbiamo visto, il cinema abbiamo sentito, vediamo la televisione. Paolo Mosca, ciao, buongiorno. Ciao, ciao, come stai? Bene, Paolo Mosca è autore del libro Reality, dal grande fratello all'isola dei famosi, ma adesso si sta occupando invece di un talent show. Insomma, la televisione fra reality e talent show, abbiamo sentito che il cinema si sta spostando verso il videogioco e viceversa, ma la TV a che punto è? Sembra a un punto fermo, o mi sbaglio? Ma guarda, parlo della TV di intrattenimento, attenzione, chiaramente non parlo della TV dei serial televisivi, che è un'altra cosa. Sì, sì. A livello di TV di intrattenimento, secondo me stiamo andando verso una sintetizzazione dei linguaggi. Cioè, voi parlavate prima dell'uso delle parole, sì, quindi del cambiamento del loro uso. Quello che noto io è che si riesce adesso a dare per scontato una serie di cose che, per esempio, nella TV di intrattenimento di 10 anni fa non si poteva fare. Per esempio? Quindi, per esempio, quando sono arrivati i reality nella TV italiana, c'era molto bisogno di spiegare che effettivamente le cose che si raccontavano erano vere, per cui che quelle persone effettivamente non mangiavano, oppure che quelle persone effettivamente erano recluse. E c'era bisogno di usare il linguaggio televisivo per raccontare questa cosa, che alla fine è un pretesto, no? Cioè viene prima di ciò che vai a raccontare, è come se fosse il contesto in cui metti i tuoi personaggi. Sì. Adesso questa cosa, dopo 10 anni di tempo, si è persa, cioè non c'è più bisogno di raccontare ancora una volta che effettivamente il Grande Fratello è vero e quelle persone sono lì veramente. Lo si dà un po' per scontato, quindi ci si libera un po' dei fronzoli e si va verso, diciamo così, una sintesi maggiore. Si eliminano, per esempio, in questo talent che sto facendo, il daytime è stato eliminato, si è eliminata la vita in accademia, cioè non va più in onda quella parte lì, se non attraverso delle clip che vanno nel prime time del giovedì sera. perché si dà un po' per scontato e probabilmente il darlo per scontato da una parte lo rende meno interessante, dall'altra ti permette di giocarci un po' di più. Il riposo del guerriero. Con Paolo Mosca, autore TV, stiamo parlando proprio di linguaggi televisivi, stiamo parlando di talent e di reality. Paolo, adesso il talent lo vediamo più spesso forse del reality, no? Perché ci sono tantissimi programmi dove i talenti sono messi in mostra. E tu, il pubblico non comincia a stancarsi, secondo te? Ma guarda, non lo so, dipende tantissimo da che tipo di talent fai intanto. Cioè anche lì i talenti possibili sono una marea. Già secondo me i reality stessi alla fine sono dei talent, perché comunque... Perché cerchi di capire quali possono essere le capacità delle persone che sono recluse, esatto, da qualche parte. Sì. Cioè già semplicemente la telegenia è un talento, se vogliamo metterla giù così. Già il fatto di avere una personalità divertente o meno è un talento, quindi volendo ben guardare, già i reality sono dei talent. Poi già nei reality un pochino più canonici, un pochino più strutturati, come poteva essere, faccio degli esempi, in Music Farm c'era il talento, per cui era una scatola da reality, ma si metteva dentro il talento dei cantanti. Qual è la difficoltà più grossa che avete voi come autori in un programma di questo genere, se ce n'è? Ma ce ne sono tantissime. Uno è non ripetersi, infatti tu dicevi c'è il rischio di che la gente si stufi, sì. È verissimo, e si cerca infatti di fare cose nuove. Per il non ripetersi secondo me ci si ricollega al discorso che si faceva prima, cioè puoi evitare di ripeterti nel momento in cui il pubblico a cui ti rivolgi dà già per scontate una serie di cose. Anche qui apro un'altra scatola per fare un altro esempio. È tipico dei reality e dei talent fare per esempio i video di presentazione dei concorrenti, e quindi sono Ruggero, sì, vengo, certo, da Napoli, e nei video di presentazione hai sempre il posto dove si trova la famiglia dalla quale arriva, certo, sì. E queste robe qui, il bar dove vai a bere il caffè, esattamente, che un po' hanno annoiato. Noi per esempio in Star Academy, nella presentazione dei concorrenti, abbiamo cercato proprio di fare un passetto avanti rispetto a questa cosa e abbiamo fatto dei video di presentazione che sembrano dei mini spot pubblicitari, togliendo tutte le location da cui vengono i concorrenti, togliendo completamente il loro ambiente familiare e trasformando tutto in un micro spot su un fondo colorato con dei minimi elementi simbolici che rappresentano il loro mondo. Tipo c'è l'appassionato di Giappone e ha in mano una katana, c'è quello che fa canottaggio a cui abbiamo messo in mano un remo, e questo lo puoi fare proprio perché questo tipo di linguaggio è stato in qualche modo assimilato. Ecco, Paolo, prima con Gabriele Niola si discuteva del fatto che ormai i videogiochi sono entrati nel mondo del cinema, no? E anche viceversa, poi ne parleremo. E, ecco, la TV in questo senso non è rimasta invece un po' vecchia, tra virgolette? Cioè non ne sta facendo uso, non del linguaggio del videogioco ovviamente, non del videogioco in sé, ma del suo linguaggio, che è un linguaggio molto preciso, che tu conosci. Guarda, anche, secondo me ci sono stati dei tentativi e mi viene in mente quella cosa che hanno fatto su Italia 1 in primavera, di cui però non mi ricordo più il nome, che era quella reality con i personaggi... Ah, Human Take Control, sì. Che è un format israeliano che hanno provato a mettere su Italia 1 e che però hanno poi dovuto chiudere dopo la seconda puntata perché gli ascolti non funzionavano. Ma aveva un po' il richiamo del videogioco. Ecco, allora forse il pubblico televisivo non è pronto, visto che il pubblico televisivo non è giovanissimo e non è neanche tanto giovane, credo che ormai il pubblico televisivo sia oltre i 30, e quindi forse è un pubblico che non è ancora pronto da quel punto di vista. Ma probabilmente non lo è per quelle che sono le TV generaliste. Poi ormai quando si parla di pubblico televisivo è veramente una categoria molto esplosa, no? Certo. Cioè, tra digitale terrestre, TV in streaming, TV sui cellulari, eccetera, eccetera, diventa molto difficile ormai categorizzarlo. Per cui, per quanto riguarda la TV generalista, probabilmente è un'operazione ancora troppo nuova. Però se tu già vai sul satellite qualcosa si può trovare. Secondo te torneremo al varietà come una volta, al varietà del sabato sera? Ma allora, a me piacerebbe molto perché trovo che sia una forma di spettacolo unica. Lì bisogna trovare i talenti però, perché sennò... Cosa? Bisogna trovare i veri talenti perché abbia forza. Ah no, quello sicuramente, ma di talenti secondo me poi alla fine ce ne sono anche tanti. Sì. Il problema è fare in modo che siano raccontati nel modo giusto e quindi presentati al pubblico nel modo giusto. Non lo so, bisogna trovare un argomento che unifichi molto, no? Per avere un vero varietà del sabato sera come potevano essere quelli di Pippo Baudo, e non so oggi come oggi quanto ci sia voglia di unità, ecco, mi sembra che ci sia molta voglia ognuno di rinchiudersi in una nicchia molto personale. È molto interessante questa visione delle cose, mi piacerebbe sapere anche gli ascoltatori che cosa pensano. Grazie Paolo, ciao, buona domenica e buon lavoro. Prego, altrettanto. Visto che abbiamo capito che non è per niente semplice. Apriamo di nuovo finalmente lo spazio dedicato proprio ai videogiochi all'interno del Riposo del Guerriero. Video game. Proprio per parlare di nuovi linguaggi e unire un pochino tutto, il cinema, la televisione, eccetera, e adesso come ospite ho Paolo Paglianti, che è il caporedattore di UTech, che è una rivista interattiva di iTech, ovviamente, su iPad. Ciao Paolo, buona domenica. Ciao Stefano. Allora, il linguaggio del videogioco e il cinema, prima appunto Gabriele Niola diceva che le due cose ormai si stanno unendo, sono... Assolutamente, ci sono ormai dei videogiochi che assomigliano più a dei film e il linguaggio è molto simile a quello cinematografico, compreso anche il fatto che vengono realizzati proprio in modo simile a un film. Sì, hanno anche costi molto alti, quindi. Hanno dei costi pazzeschi, infatti le software house e i distributori anche grossi devono stare molto attenti, perché basta un gioco sbagliato e va tutto a carte 48, perché i costi sono pazzeschi. Per esempio, prima dell'estate è uscito un videogioco che si chiama L.A. Noir, molto simile, diciamo, dal punto di vista del linguaggio a Black Dahlia, il film e il romanzo che era, insomma, famoso, e in questo videogioco era molto importante capire il linguaggio dei sospettati, e per realizzare nel videogioco dei volti e delle espressioni controllate dal computer che fossero realistiche, è stata utilizzata una tecnica di facial recognition identica a quella di Avatar. Esatto, in poche parole, siccome le espressioni erano particolarmente importanti, era necessario, esatto. Ne avevamo parlato, io poi avevo criticato il fatto che non essendo stato localizzato in italiano era molto difficile riuscire a leggere i sottotitoli mentre guardavi le espressioni, ovvero era impossibile, ma questo è un altro discorso. Paolo, ecco, ci sono anche giochi ormai interattivi, l'avvento di Move per PlayStation, di Kinect per Xbox, insomma Wii ce l'ha insegnato dall'inizio. Sta ancora avendo una grande forza oppure cominciano a essere meno interessanti? Oppure si stanno sperimentando nuove vie da questo punto di vista? Beh, Wii rimane comunque una delle console più diffuse nel mondo, anche se quello che è successo è che sono stati venduti, generalmente vengono venduti pochi giochi per Wii che vengono continuamente rigiocati dal pubblico che possiamo definire di massa, quelli che magari giocano una sera alla settimana con gli amici. Kinect e Move hanno conosciuto un grande successo quando sono stati lanciati. Oggi stiamo vedendo i primi giochi veri, cioè non i giochi party games. Sì, cioè tu dici qualcosa di un po' più strutturato. Ecco. Esatto, e infatti nell'ultimo mese per esempio è uscito un gioco horror che utilizza Kinect, poi il gioco non è bellissimo, ma comunque stanno proseguendo su questa strada di interattività. Ecco, quindi tu credi che l'interazione del corpo nel videogioco sia comunque un passo avanti, quindi sia qualcosa che si continuerà a utilizzare? Certo, per esempio questa settimana è uscito anche Forza Motorsport 4, il nuovo gioco di guida di Microsoft che utilizza Kinect. Puoi giocarlo in due modi, puoi giocarlo col Kinect usando il volante virtuale come se fosse l'Air Guitar, in cui muovi le mani davanti al Kinect e lui capisce dove stai andando, e la cosa più importante però è che tu puoi girare il volto e quando giri il volto la console capisce che stai guardando a destra o a sinistra. E vedi a destra e a sinistra, sì. Ne parleremo la settimana prossima, infatti. Paolo, ti ringrazio e insomma buona domenica intanto. Grazie mille, ciao. Intanto io, prima di Davide Paolini, io volevo raccontare proprio per perché c'è un gioco che forse unisce un po' tutte queste cose, perché è appena uscito Just Dance 3, che è il videogioco di ballo per eccellenza, perché ha fatto ballare più di 50 milioni di persone in tutto il mondo. Ma la cosa curiosa, ovviamente, è questo è un gioco dove bisogna ballare davanti allo schermo della console, del televisore, ovviamente collegato alla console, e si imparano nuove coreografie. Ovviamente la voglia di ballare, di scatenarsi, di imparare nuove coreografie pare che abbia avuto un grandissimo successo. Le versioni precedenti hanno superato i 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questa edizione, ovvero la terza di Just Dance, ha 40 nuovi brani, ma l'unione di tutto è il fatto che se andate sul sito justdancegame.com avete la possibilità di partecipare a un talent show vero e proprio che vi permetterà di essere selezionati per proporre il videogioco in giro per l'Italia. Verranno selezionati 4 ambasciatori del ballo, per cui se sapete ballare e quindi se amate farlo videogiocando oppure amate farlo guardando i talent show dedicati al ballo, ce ne sono una valanga, e potete anche proporvi voi come veri talenti, essere magari selezionati per essere uno dei 4 ambasciatori del ballo con Just Dance 3. Vi ricordo ancora il sito justdancegame.com. 11:27, velocemente con il nostro gastronauta. Fiorfiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi presenta il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Oggi parliamo di novità, di nuovi linguaggi, nuove sperimentazioni. Adesso poi che vanno anche i talent televisivi con i nuovi chef, sperimenteremo di tutto, a quanto pare. Bah, sì, mi sembra che comunque si stia un po' esagerando, sono un po' troppi, credo. Credo e alcuni non di grande livello, bisognerà anche selezionare, bisognerà cominciare a selezionare, ma è sempre così. Quando diciamo ci sono degli interessi cominciano in tanti e poi magari finiscono in pochi, ma sicuramente sono delle cose che interessano il pubblico, perché ormai il cibo non solo è interesse di tutti, ma è un linguaggio ormai che interessa a tutti, quindi si parla di nuovi linguaggi. Il cibo sicuramente è sempre stato all'avanguardia, perché moltissimi termini usati dal cibo sono poi stati traslati in altri aspetti di costume. Vorrei ricordare fusion, vorrei ricordare vintage, vorrei ricordare tantissime altre cose. Questa ne è la dimostrazione, che il cibo molte volte guida la danza, diciamo, dei nuovi linguaggi. Ecco, c'è qualcosa di particolarmente nuovo tra cibi e vini che ti ha davvero soddisfatto e che ritieni sia davvero un'innovazione, un nuovo modo di proporsi? Ma io credo che quello che sta emergendo all'orizzonte è un po' quella battuta che gira ormai da anni, che la tradizione è un'innovazione riuscita, nel senso che sempre di più si torna alla semplicità. Credo che questo sia un po' il corso, dai barocchismi di qualche anno fa, anche dei menù o d'altro, delle citazioni dei piatti, man mano si raggiunge ormai un linguaggio molto più scarno e sicuramente una semplicità dovuta sicuramente ai tempi, dovuta anche a qualcosa di esterno, perché sicuramente la crisi economica porta ad essere più semplici. Quindi credo che sia questo, insomma, il corso nuovo, molti meno barocchismi o birignao, come li chiamo io, anzi come li ha chiamati un noto scrittore, non io, non voglio arbasino, non voglio prendere da altri questa splendida parola, ma devo dire che insomma si sta andando alla semplicità. Basta vedere i locali nuovi che nascono, sicuramente non hanno più diciamo l'ambizione di essere luoghi stellati o cattedrali del gusto, ma sempre di più di corrispondere, diciamo, ai tempi, quindi alla semplicità e anche alla rapidità. Rapidità non vuol dire fast food, rapidità vuol dire stare meno di 3 ore a tavola, 2 ore e mezzo a tavola con i famosi menù degustazione. Questo secondo me che ormai sta scorrendo. Sul vino non vedo grandissime novità, perché il vino difficilmente si rinnova. Si può rinnovare nel linguaggio, si può rinnovare nella forma, nella presentazione, però il contenuto è sempre difficile che si venga rinnovato. Ecco, e tra l'altro così stavo riflettendo sul fatto che forse la cucina anticipa un po' i tempi, no? Questo ritorno in qualche modo alla semplicità potrebbe essere anche il ritorno alla semplicità della scrittura, come si discuteva prima, e forse anche la semplicità della TV, come magari vorremmo rivedere come una volta, infatti, appunto. Infatti, come ti ho detto, cioè io tempo fa ho fatto proprio un'esercitazione di molti vocaboli che sono nati in, diciamo, in cucina o in cantina, perché vintage è nato in cantina, e poi sono stati traslati dalla moda, sono stati traslati dal design, sono stati traslati dalla letteratura, quindi ora probabilmente ci sarà qualche nuovo vocabolo, insomma, perché emergerà. Destrutturazione, per esempio, cioè la cucina destrutturata, anche questo secondo me poi ha portato anche nella moda un qualcosa di particolare, così pure nel design. Quindi diciamo che, guarda caso, è strano, ma la cucina molte volte anticipa i tempi. E infatti questo è particolarmente interessante, è una riflessione che vale la pena fare. Grazie Davide, ciao, buona alla prossima, domenica. Ciao. Grazie. Ciao. E, tra l'altro, Gastronauta è entrato nello Zingarelli già qualche anno fa. 11.32, tra pochissimo giochiamo con il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Alle 11.37 siamo pronti con il nostro, anzi vostro, mistero da risolvere in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. La possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a rispondere e risolvere il mistero, che può essere come sempre una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Partiamo ovviamente da 1000 euro. Il numero per partecipare è sempre il nostro numero verde 800 24 00 24, ed ecco il primo indizio. Liberi, liberi di volare, siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare, siamo liberi, liberi, liberi di sognare, siamo liberi, liberi di non ritornare. Questo è il nuovo singolo di Vasco Rossi, tra l'altro che si può scaricare gratuitamente dalla rete, perché così è nato, insomma, quindi è regalato in rete. I soliti, si intitola. Laura, ciao, buona giornata, buona domenica. Buongiorno, eccoci qua. Stefano. Ciao. Grazie, Laura. Abbiamo 1000 euro qua sul tavolo, che cosa vuoi fare? Dal primo indizio mi sembra un po' così, io chiederei il secondo. Allora scendiamo a 500 euro. Thanks a lot, son, just the same. Venture highway in nice sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Dire che è veramente un pezzo straordinario, era il secondo album degli America dal 1972, questa avventura highway, questo viaggio in autostrada mentre il sole sta sorgendo. Laura, eccoci qua, gli America di Ventura Highway, questo è il secondo indizio. Vuoi pensarci, diamo gli aggiornamenti sul traffico e poi mi dai la tua risposta? Concentrati allora. Strade in diretta. Per un incidente si incontrano code sulla 12 Genova-Rosignano tra Sarzana e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Ci spostiamo a Roma, ci sono code in entrata verso la capitale sul tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e il raccordo anulare. Ancora sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, attenzione, nevischia tra Sergi e San Gabriele Colledara. Ci spostiamo sulla 25 Torano-Pescara, qui c'è forte vento e pioggia tra Piscina e Cocullo. Pioggia e vento forte anche sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrano, tra Andria e Gioia del Colle e tra Roseto degli Abruzzi e Vasto. Per la Garda Marathon è chiusa la statale 249 Gardesana Orientale tra Arco e Malcesine in entrambe le direzioni sino alle 16 di questo pomeriggio. Infine si ricorda la Domenica Ecologica a Milano, oggi blocco totale della circolazione su tutto il territorio cittadino sino alle 18. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Laura, allora, due indizi li abbiamo scoperti, siamo a 500 euro, cosa rispondi? Allora, io direi la marcia di protesta dei giovani a Wall Street. Eccoti lì. Ciao Laura, grazie, buona domenica. Saprà la risposta giusta fino allo scoccare del 24esimo minuto. Monica da Pisa, buongiorno Monica. Buongiorno, buongiorno. 500 euro, che cosa vogliamo fare? Allora, provo a dare la risposta. Allora aspetta, ascoltiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Noi siamo i soliti, quelli così. Venture highway in the sunshine. I soliti, i Vasco Rossi, Ventura Highway degli America. Allora secondo me Ivano Fossati, che ha annunciato la chiusura della sua carriera. Purtroppo, grazie. No. Monica, a me piace molto, lo seguo sempre. Anch'io, lo adoro. Grazie, ciao. Ciao. Buona giornata. Giordana da Lecco, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Allora, Giordana, cosa vogliamo fare? Dare una risposta o far scendere il premio e sentire un terzo indizio? Io rischio con la scarcerazione di Amanda e Sollecito. Non ti chiedo cosa pensi. Ciao Giordana, grazie. Ciao, buona grazie. Domenica. Buona ciao. Domenica. Gianna, dalla provincia di Treviso. Sì, ciao. Ciao Gianna. Io mi butto. Anche tu. Napolitano. Me è napolitano quando ha parlato di Einaudi ed è stato interpretato che parlasse di governo tecnico. Ciao Gianna, grazie. No, sorrido, grazie perché. Erika da Roma, buongiorno. Buongiorno. Erika, ti sentiamo malissimo. Un po'. Mi sente? Proprio mi molto, sente? Molto male. Mi sente? Sì, un pochino molto. Meglio. Vai, Erika. Ecco, non ho le idee chiare. Sono stata da un giornalaio a chiedere qualche indizio. Allora, sentiamo il terzo indizio e scendiamo a 300 euro. La gente ride perché. La sua eleganza non sa capire, però io l'amo perché è moderna e nessun altro è in gamba così. Eccolo qua il terzo indizio, Erika. Non lo so, che non l'hai riconosciuto. Io la sparo perché me l'ha detto al giornalaio, la notizia della settimana. Allora... Dimmi, Erika. Allora, potrebbe essere il matrimonio della Cortellesi? Che tra l'altro mi è molto simpatica, grazie. Ciao Erika, grazie, buona giornata, ciao. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, intanto la canzone era Pino Donaggio, cosa ho pescato, sentite un po', con La ragazza con il maglione. Forse mia mamma se la ricorda. Allora, abbiamo Barbara dalla provincia di Treviso. Barbara, buongiorno. Buongiorno a lei. Tu sei la ragazza con il maglione che cantava, cantata da Pino Donaggio? No. Oggi sì, un po' di raffreddore. No, è per quello, c'è un freschino. Allora, Barbara, che cosa vuoi fare? Siamo a 300 euro. Io mi butto. Vai. Mi butto però, sarei sicuramente sbagliato. E il censimento Istat che è partito... Hai cominciato a farlo su internet? No. Ancora no. Oggi quella sarà la mia giornata. Allora, grazie. Ciao Barbara, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, Enrico da Roma. Eccolo. Eccoci. Buongiorno. Qua, cosa vogliamo fare? Provo a dare la soluzione. Abbiamo anche degli altri indizi. Sì, da lì parti, sì. Va bene, dimmi Enrico allora. Mi fa pensare alla California, la Venture Highway, quindi direi Steve Jobs, la morte di Steve Jobs. Grazie Enrico, buona partita. Grazie, buona domenica ovviamente. Grazie, ciao. Grazie a te. Abbiamo Luciana da Milano, vi ricordo ancora il numero 800240024. Luciana. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a te. Allora, io non so, mi lancio, mi butto anch'io. Aspetta, allora Luciana, facciamo un po' d'ordine e sentiamo i tre indizi scoperti fino a questo momento. Noi siamo i soliti, quelli così. Venture highway in the sunshine. Con il maglione ne piace star, i suoi capelli gli arrivano qui. Allora, i soliti di Vasco Rossi, Ventura Highway degli America e la ragazza con il maglione di Pino Donaggio. Ecco quindi tre indizi. Luciana. Allora, io dico la nuova tassa in Danimarca sugli alimenti grassi, che sono sempre accusati, per cui noi siamo i soliti accusati, e poi il maglione che copre tutta la ciccia in più. È un trucco quello per non far la dieta. Grazie Luciana, buona giornata. Grazie, buona domenica. Io voglio dare il premio creatività, comunque adesso inseriremo il premio creatività, che verrà dato agli ascoltatori più creativi con le risposte. Questa potrebbe essere una di quelle. Fabio da Brescia, buongiorno. Amanda Knox. Dice Amanda. Grazie Fabio, ciao, buona domenica, ciao. Alfonso da Caserta, Alfonso. Ciao Stefano, ciao, buongiorno. Buongiorno. Niente, io. Ma beh, nessun indizio in più, eh? No, zero, proprio no. Vabbè, no. Mi butto. Sì, vai. Avevo due risposte, ma già l'hanno dette, quindi io dico il film di Sorrentino che esce venerdì. This must be the place, il 14 ottobre. Sì, grazie Alfonso, grazie, buona domenica grazie, anche a te. Chi lo sa se c'è una risposta esatta fra tutte quelle che sono arrivate. Ma quando vi dico, ascoltate un altro indizio, un motivo c'è. Sonia da Milano, buongiorno. Buongiorno, vorrei sentire l'altro indizio. Ma dai, ma pensa, brava, giusto. Io l'avrei fatto se fossi stata in te. Allora, attenzione. Quarto indizio, 200 euro. E dammi retta, no, non è caso che rimani preoccupato. Ho fatto sempre il bravo solo perché sudavo. Mi sono tolto via la canottiera. Sono un po' più secchetto, ma giusto qualche etto. E fumo poco poco, poi non dico parolacce, sta sicura, sto diventando proprio un ometto. Devo dire che la lettera di Claudio Baglioni va avanti ancora molto, finisce col fatto che non hai soldi e quindi li chiede anche alla mamma. Lettera di Baglioni, questo è il quarto indizio. Sonia. Veramente mi trovo in alto mare. Ma come? Con questo indizio non può essere. Mi butto. Vai Sonia. La ragazza americana finita nel posto. Grazie Sonia, buona domenica. Abbiamo finito? Sì. La risposta, pensate, che è quasi arrivata da internet, perché qualcuno ha scritto Sergio Marchionne, ma in realtà la vera risposta è la Fiat uscita da Confindustria. I soliti, noi siamo liberi. Marchionne che dice noi siamo liberi, e così aveva scritto nella sua lettera, questo è il quarto indizio, a Confindustria, Ventura Highway America, perché lo sapete, Fiat è là anche. La ragazza col maglione, beh, non è una ragazza Marchionne, però il maglione ci sta sempre. E comunque, questa è la risposta. Mi spiace, nessun premio per voi. Velocemente la risposta a un dubbio di un ascoltatore che sente sempre dire dai TG frasi come "è quasi come se l'autore si sia ispirato". Lui dice "ma è sbagliato", sì, perché avrebbero dovuto dire "è quasi come se l'autore si fosse ispirato". Detto questo, grazie a voi come sempre per essere stati su Radio 24, continuate a farlo. Grazie alla redazione, Giorgio De Luca, l'assistenza di Stefania Tagliaferri, Paolo Correoni in regia, e voi per l'ascolto. A domenica prossima, buona settimana da Stefano Gallarini.